24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano il discorso al Senato del nuovo primo ministro italiano Mario Monti, che ha esordito con una frase suggestiva: l'Europa siamo noi. Commenti positivi all'esordio di Monti in Parlamento dalle massime autorità comunitarie che incontreranno il nuovo premier a breve. Calano gli spread italiani, ma le borse continentali vanno male. Intanto Bruxelles infligge una multa milionaria all'Italia, vi spiegheremo perché. In primo piano, come dicevamo nel sommario, il discorso del nuovo primo ministro italiano Mario Monti al Senato. L'Europa siamo noi, ha dichiarato Monti nel suo discorso programmatico, aggiungendo: la fine dell'euro disgregherebbe il mercato unico. Monti ha poi aggiunto: daremo piena attuazione alle misure varate quest'estate, completandole con le misure contenute nella lettera inviata in Europa e valuteremo ulteriori correttivi. Ma sentiamo un passaggio del suo intervento. Solo se riusciremo ad evitare che qualcuno con maggiore fondamento, con minore fondamento, ci consideri l'anello debole dell'Europa, potremo ricominciare a contribuire a pieno titolo all'elaborazione di queste riforme europee. Altrimenti ci ritroveremo soci di un progetto che non avremo contribuito ad elaborare, ideato da paesi che, pur avendo a cuore il futuro dell'Europa, hanno anche a cuore i loro interessi nazionali, tra i quali non c'è necessariamente un'Italia forte. Sempre secondo Monti, la crisi che stiamo vivendo è internazionale, ma l'Italia ne ha risentito in maniera particolare. Secondo la Commissione europea, al termine del prossimo anno il PIL dell'Italia sarebbe ancora 4,5 punti al di sotto del livello raggiunto prima della crisi. Per la stessa data, ha poi aggiunto Monti, l'area dell'euro nel suo complesso avrebbe invece recuperato la perdita del PIL dovuta alla crisi internazionale. Francia e Germania raggiungerebbero lo stesso traguardo nell'anno in corso. E ora le reazioni dell'Europa al discorso di Monti. Il presidente della Commissione Barroso e quello dell'Unione Van Rompuy hanno avuto una conversazione telefonica con il nuovo premier. Entrambi hanno annunciato un incontro con Monti a breve. Totale fiducia nelle capacità dell'esecutivo Monti è stata espressa da Van Rompuy. Per la Commissione, con il governo Monti, l'Italia mostra la sua determinazione a superare la crisi. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha chiesto a Monti di decidere e attuare rapidamente le riforme necessarie. L'Italia è un paese forte, con una buona base economica, ha aggiunto la Merkel, secondo la quale il nuovo governo deve fare progressi molto rapidi nel risanamento delle finanze del paese. Reazione positiva al discorso di Monti anche sul fronte degli spread, i differenziali tra i BTP decennali e il Bund tedesco, che hanno archiviato la seduta sotto i 500 punti base a 494,7. Il rendimento del decennale si attesta al 6,84%. Quella di ieri è stata una giornata di forti tensioni sugli spread spagnolo e francese. Allarme a Madrid, dove lo spread è balzato a livello record di 499 punti dopo che il tasso di interesse per collocare nell'asta i bonus è salito al 7%. Il differenziale di rendimento tra i decennali della Francia e il Bund tedesco ha invece superato la soglia dei 200 punti base, il livello più alto dalla creazione dell'Eurozona. I timori sul debito dei paesi dell'area euro hanno continuato a fare paura e tenere sotto pressione le borse del vecchio continente, che hanno chiuso tutte in calo. Milano ha perso l'1,43%, male le azioni cicliche sul timore che sia in arrivo una nuova recessione. Deboli le banche, sentiamo. I timori sul debito dei paesi dell'Eurozona hanno continuato a fare paura e tenere sotto pressione le borse del vecchio continente, che così hanno chiuso tutte in calo. Milano ha perso l'1,43% nel giorno del discorso del neopremier Mario Monti al Senato. Lo spread però si è allentato, tornando al di sotto dei 500 punti. Sono andate male le azioni cicliche sul timore che sia in arrivo una recessione. Deboli le banche. Solo le azioni di BPM hanno chiuso invariate a 0,3 euro, il prezzo di emissione dei titoli legati all'aumento di capitale da 800 milioni nel penultimo giorno di operazione. Buzzi ha accusato una flessione del 5,89%, Fiat del 2,78% e Prismian del 3,37%. Ed ancora, Mediaset ha registrato un meno 3,2%. Dallo scorso 8 novembre, giorno del voto del rendiconto finanziario alla Camera, i titoli dell'azienda di broadcasting hanno perso perso quasi il 20%. Si sono invece salvate dalle vendite le Luxottica, più 1,1%, che hanno continuato a festeggiare l'accordo firmato con Giorgio Armani per produrre occhiali a partire dal 2013. Non si è invece arrestata l'emorragia di vendite su Finmeccanica. Da martedì, giorno in cui i vertici della società hanno annunciato i conti dei primi 9 mesi e rivisto al ribasso le stime per fine anno, le quotazioni hanno lasciato sul parterre oltre il 26% del proprio valore. Eleonora Micheli da Radio Corp, Radio 24 e Il Sole 24 Ore. Cauto ottimismo dal primo rapporto trimestrale della task force della Commissione europea in Grecia. La squadra di esperti inviata ad Atene da Bruxelles il 1 settembre 2011 per aiutare le autorità elleniche a individuare le debolezze strutturali del paese e utilizzare al meglio i fondi europei. La riscossione delle tasse in Grecia è minacciata dall'alta evasione fiscale. Il primo rapporto della task force stima in 60 miliardi di euro le imposte non pagate. E intanto almeno 15.000 dimostranti hanno sfilato per le vie di Atene contro la politica di austerità, lo ha reso noto la polizia della capitale ellenica. Vi ricordiamo anche che la Spagna andrà domenica al voto per scegliere il successore dell'attuale primo ministro Zapatero, favorito il Partito Popolare di Mariano Rajoy. Il Fondo Monetario Internazionale avrebbe discusso con alcuni funzionari europei l'idea che la BCE possa fornire un salvataggio indiretto anche a paesi di grandi dimensioni, fornendo finanziamenti all'FMI stesso. Lo scrive l'agenzia Reuters, citando fonti vicine al dossier, secondo le quali l'ipotesi permetterebbe di aggirare le restrizioni legali che impediscono alla BCE di finanziare direttamente gli stati. E la cancelliera tedesca Angela Merkel intende introdurre il tema di un cambiamento limitato dei trattati europei già nel prossimo Consiglio europeo in calendario il 9 di dicembre. Voltiamo ora pagina. Multa milionaria della Corte di Giustizia europea all'Italia. Sentiamo perché. 30 milioni di multa all'Italia per non aver recuperato presso i datori di lavoro gli aiuti in forma di sgravi fiscali per i contratti di formazione e lavoro. Oltre a questo, l'Italia dovrà pagare altre multe per ogni semestre di ritardo nel recupero. Le sanzioni decise oggi dalla Corte di Giustizia europea sono l'ultima conseguenza del fatto che il nostro Paese non ha ancora dato esecuzione ad una prima sentenza che risale all'aprile 2004. Le agevolazioni, secondo la giurisprudenza europea, sono illegittime perché contrarie alle norme sulla concorrenza tra gli Stati membri. Introdotti nel 1984, i contratti di formazione e lavoro erano contratti a tempo determinato per l'assunzione dei disoccupati di età non superiore ai 29 anni, in esenzione dagli oneri sociali. Con il tempo furono introdotte varie modifiche che stravolsero l'originario impianto dell'istituto. In alcune regioni, come Basilicata, Sicilia e Molise, il limite d'età fu elevato fino ai 45 anni. Con l'occasione, i giudici europei ricordano anche che l'Italia è ancora inadempiente per diverse sentenze in materia di aiuti di Stato e quindi altre multe arriveranno. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il capo negoziatore kosovaro e negoziati con Belgrado, Edita Tahiri, ha confermato che il dialogo tra le parti riprenderà con tutta probabilità lunedì 21 novembre a Bruxelles. A indicare questa data era stato Borislav Stefanovic, capo della delegazione serba ai colloqui con Pristina, che si tengono sotto la mediazione europea. Johannes Hahn, commissario europeo per la politica regionale, ha confermato la proposta di Bruxelles di stanziare 16,9 milioni di euro a favore della regione Veneto per fronteggiare le conseguenze delle piogge torrenziali cadute nell'ottobre del 2010. La sovvenzione sarà versata attraverso il Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea e aiuterà le autorità a sostenere le spese causate dall'emergenza, soprattutto per ripristinare le infrastrutture essenziali. Intanto la Commissione europea non ha ancora ricevuto alcuna richiesta di fondi per gli interventi di ricostruzione dopo le alluvioni in Liguria, Piemonte e Campania da parte delle autorità italiane. Lo ha riferito un portavoce precisando che la richiesta di contributi deve essere fatta entro 10 settimane. Per il presidente siriano Assad è arrivato il momento di dimettersi. Lo ha dichiarato il capo della diplomazia europea Catherine Ashton in una conferenza stampa a Mosca dopo un incontro con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Via libera dell'Europarlamento a stanziare ulteriori 40 milioni di euro nel bilancio della politica marittima integrata per il triennio 2011-2013. Il testo, approvato a grandissima maggioranza dagli eurodeputati, riflette l'accordo raggiunto con il Consiglio dei Ministri che prevede di finanziare programmi e progetti pilota nella nell'ambito della politica marittima. Infine, stop al conflitto di interessi e ai regali per i parlamentari europei. Sulla spinta dello scandalo degli emendamenti pilotati, rivelato nella primavera scorsa dalla stampa britannica, la Commissione Affari Costituzionali ha approvato all'unanimità il nuovo codice di condotta degli eurodeputati. Il testo dovrà essere approvato a maggioranza qualificata dalla plenaria che si terrà a Bruxelles il 1 dicembre, entrando poi in vigore dal 1 gennaio 2012. Ed è tutto per questo appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.